I problemi che hanno avuto origine dalla crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti rapidamente sono dilagati anche a livello globale. Le prospettive di perdita nel mercato statunitense hanno creato molte difficoltà non solo nel sistema finanziario degli Stati Uniti, ma nel sistema finanziario mondiale. Dobbiamo essere sicuri che la nostra risposta sia ragionata e misurata. Innanzitutto occorre migliorare la trasparenza dei mercati e gli standard di valutazione dei prodotti finanziari complessi. Inoltre c'è la necessità di rafforzare il quadro regolatorio nel settore finanziario e infine migliorare il funzionamento del mercato con particolare attenzione al ruolo delle agenzie di rating. La maggiore integrazione dei mercati finanziari europei rende il settore finanziario più capace di affrontare le turbolenze. Inoltre, la presenza dei mercati finanziari più integrati può anche aumentare la crescita economica.